Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da maggio a novembre del 1848. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura di questa edizione, ancora una volta un'edizione speciale, le cronache di guerra che portano il segno della sconfitta dell'esercito sardo-piemontese e della delusione che avanza tra le file dei patriotti. Andiamo con ordine e con la situazione nei vari regni d'Italia, iniziando da Napoli, dove il re Ferdinando II ha ripreso il controllo nella maniera più violenta possibile. Il 15 maggio ha sciolto il Parlamento, la Guardia Nazionale ha proclamato lo stato d'assedio e il popolo ha alzato le barricate, ma non ha potuto nulla, le vittime sono state centinaia. Lo stesso Ferdinando, in coerenza con queste decisioni, ha richiamato i 16.000 uomini inviati a sostegno della guerra contro gli austriaci. Il generale Guglielmo Pepe, però, già protagonista dei moti del 20-21, non ha obbedito ed è a Venezia con 2.000 uomini, dove sta difendendo la città sotto assedio. Forse anche l'assenza di soldati napoletani ha avuto un impatto decisivo sulle sorti della guerra. Le note scritte da Johann Strauss per celebrare il feldmaresciallo Josef Radetzky risuonano in tutta Vienna. Osannato in patria quanto odiato a Milano, dove è rientrato in agosto, dopo che Carlo Alberto di Savoia aveva lasciato la città in piena notte il 5 di quel mese. Difendere Milano era impossibile e se n'è andato a piedi col figlio Vittorio Emanuele, scortato dai bersaglieri, lasciandola in tumulto, gonfia di rabbia per essere stata abbandonata dopo aver votato in massa per l'annessione al Piemonte. Gli ultimi mesi hanno messo in evidenza la pochezza tattica e strategica dell'esercito dei Savoia. Sembrava fatta quando a Goito, il 30 maggio, le truppe di Torino erano riuscite a respingere l'assalto degli austriaci che volevano riconquistare i ponti sul Mincio. Era caduto anche l'avamposto di Peschiera. I soldati avevano iniziato ad acclamare Carlo Alberto re d'Italia. Un entusiasmo che si è spento a Custozza il 25 luglio, dove l'ottantenne feldmaresciallo Radetzky si è dimostrato all'altezza della sua fama di stratega, mentre le pecche del comando piemontese sono state evidenti, a partire da quello schieramento esteso su una lunghezza di 70 chilometri, troppi, e con un varco al centro nel quale gli austriaci si sono infilati. Gli scontri sono durati 3 giorni, poi i militari sardo-piemontesi hanno dovuto ripiegare. Molti sono convinti che tra gli errori del sovrano vi sia stato il rifiuto di accogliere tra le sue fila i volontari guidati dal focoso generale d'ex esule Giuseppe Garibaldi, la cui spada è andata invece al servizio del governo provvisorio milanese. Ora che gli austriaci sono tornati nel capoluogo lombardo, la Guardia Nazionale è stata sciolta, sono state vietate le riunioni, è stata sospesa la libertà di stampa, ma l'imperatore ha concesso il perdono ai liberali. I patrioti che erano accorsi in forze se ne sono andati. Da Cristina Trivulzio di Belgioioso, che a Napoli aveva raccolto 200 volontari arrivati con lei a Milano, a Giuseppe Mazzini, che si è unito brevemente alle forze di Giuseppe Garibaldi per poi riparare in Svizzera. Sarebbe diretto verso il centro Italia, invece, lo stesso Garibaldi. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. È tutto, vi ricordiamo come sempre di andare a visitare il sito di Radio 24, dove trovate il nostro foglio quotidiano, il nostro giornale con immagini e notizie. Visitate il nostro blog, la nostra pagina Facebook, lasciateci un commento anche a gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.